Radio 24 Reportage. Quando arriva il tempo degli addii alla scena, esiste un luogo dove si ritrovano i musicisti. Bella figlia dell'amore. Delle mie opere, quella che mi piace di più è la casa che ho fatto costruire a Milano per accogliervi vecchi artisti di canto non favoriti dalla fortuna o che non possedettero da giovani la virtù del risparmio, poveri e cari compagni della mia vita. Credimi, amico, quella casa è veramente l'opera mia più bella. Così scriveva Giuseppe Verdi in una lettera all'amico Giulio Monteverde e ancora oggi, vedendo Casa Verdi, il maestro non potrebbe che esserne orgoglioso. Casa Verdi è la casa di riposo per cantanti e musicisti che venne fondata dal compositore nel 1896. Si trova a Milano, in piazza Buonarroti 29. È una struttura in stile neogotico progettata dall'architetto Camillo Boito, fratello del celebre musicista Arrigo, amico del maestro Verdi, nonché autore dei libretti di Otello e Falstaff e del rifacimento del Simon Boccanegra. Il maestro fece testamento nel 1895 e stabilì che i proventi delle sue opere sarebbero serviti per pagare i lavori di costruzione della casa. La struttura venne completata nel 1899, ma Verdi volle che la casa accogliesse gli ospiti solo dopo la sua morte, avvenuta nei due anni seguenti, nel 1901. I primi ospiti entrarono il 10 ottobre del 1902. Il 10 ottobre, lo ricordiamo, era il giorno del compleanno del maestro. E da allora Casa Verdi ha accolto oltre 1000 persone che nella vita si sono dedicate alla musica in vario modo e che, giunti all'età della pensione, hanno potuto trascorrervi la vecchiaia in totale libertà e autonomia. Perché Casa Verdi non è un ricovero, ma una casa di riposo dopo una vita interamente dedicata alla musica. Uno degli ospiti più giovani è il baritono Claudio Giompi, che ricorda così la sua lunga carriera. Muti, Kleiber, Zeffirelli, Menotti. Edoardo, sì. Vede, il bello della mia carriera è stato proprio che mi ha dato la possibilità di spaziare, di conoscere il mondo soprattutto. Quindi è stata una cosa molto bella, perché altrimenti sarei rimasta a fare il postino di Trieste. E quando hai iniziato? Io ho iniziato a fare teatro a 5 anni, con un teatrino di marionette che mi aveva fatto mio nonno falegname, e io lì cominciavo con le mollette, sai, quelle che si mettono ad asciugare, facevo le gonnelline con la carta crepe che si usava a mettere intorno alla cappa del camino, e immaginavo mondi meravigliosi e soprattutto sognavo di incontrare mio padre, che era andato negli Stati Uniti e che mi aveva lasciato quando avevo l'età di 3 anni. Quindi ad un certo momento la carriera lirica è stata questo, la spinta che mi ha portato a fare il cantante, quello di poter raggiungere un giorno mio padre negli Stati Uniti. E pensi che questo è avvenuto quando avevo 50 anni e che io ormai avevo perso ogni speranza di andare a cantare al Metropolitan, perché avevo cantato in tutti i teatri del mondo ma non avevo cantato ancora al Metropolitan di New York. E il maestro Kleiber, che lo porto nel cuore perché è stato un maestro straordinario per me, mi ha voluto al Metropolitan per la Bohème con Pavarotti e la Freini, e io in quell'occasione finalmente ho avuto l'occasione di conoscere e di incontrare mio padre, che allora aveva 80 anni, il giorno del mio 50° compleanno. E questa è la cosa, diciamo, che mi ha spinto ad affrontare questo mondo meraviglioso, il mondo del teatro. Il mio sogno era quello e sono riuscito a realizzarlo, come tutti i sogni che ho avuto. E il mio sogno era vivere il mondo della finzione, perché nella mia vita ero sempre troppo me stesso, e affrontando 200 personaggi, 200 ruoli quasi nella mia carriera artistica, in ogni ruolo perdevo una parte di me stesso e acquisivo quella del personaggio che interpretavo. E quindi questo mi ha fatto capire molto il significato della vita, il significato della morte. E adesso sono qui in questa meravigliosa casa, però continuiamo ancora qui ad insegnare, a cercare di dare quello che abbiamo acquisito ai giovani, perché questo secondo me è il nostro compito ora. Lei quando è arrivato a Casa Verdi? Sono da poco qui, sono 3 anni appena, ma sono uno degli ospiti più giovani nonostante i miei 76 anni. E la decisione di venire qui? La decisione di venire qui è nata dal fatto di essere vicino a Verdi, che ho sempre amato, e quindi poter stare nella casa che lui ha concepito per noi musicisti e dove c'è la sua tomba è stata una delle ragioni che mi hanno spinto qui. Come si trova qui? Come è strutturata una giornata? E io, per quanto posso, mi do da fare per organizzare, fare partecipare tutti gli ospiti a qualche manifestazione, con quelli che hanno ancora voglia di fare, naturalmente, però c'è bisogno di qualche cosa per unirci di più, ecco. Una cosa che non manca ancora a Casa Verdi è la rivalità anche tra gli ospiti, è così? E ecco, quello che io cerco di abbattere per quanto mi è possibile. Due sono le cose che qui trovo, è il fatto di vivere nel passato e non nel presente o nel futuro, quel poco che ancora ci rimane, e questa cosa, diciamo, separa le persone invece di accumularle insieme. E quindi io dico che bisognerebbe fare di più tra di noi e soprattutto verso i giovani. E far vedere alle scuole che cos'è l'opera, per esempio, che non conoscono affatto, cosa intendeva fare Verdi nella sua vita, che cosa ha fatto, cioè costruire con i giovani, questo ci sarebbe bisogno. E anche il fatto che ci sia meno presenza di ospiti qua? Purtroppo vede che l'unico esempio ancora vivo è quello della signora Vasta qui sotto il profilo vocale. Va bene, perché gli altri che vengono qui ormai sono le strutture, quelli che sono arrivati agli ultimi giorni della vita, proprio che non hanno altra possibilità. Invece questa è una casa che potrebbe accogliere persone ancora giovani, ancora in grado di poter fare qualche cosa. Ecco, questo forse manca. Ecco che manca anche a me per organizzare questi concerti, tipo quel film Quartet, ci sono sempre questi conflitti interni, ah no, se canta quello io non canto, se viene quello io non faccio, e purtroppo questi sono un po' i piccoli nei di Casa Verdi. Tutti a Milano sanno dove si trova Casa Verdi, chi non lo sa è solo chi viene da fuori. Casa Verdi è un luogo, ma rappresenta anche lo spirito di un mondo magico sullo sfondo di note musicali che non si interrompono mai, come per la soprano Lina Vasta, che è a Casa Verdi da tanti anni. Da 28 anni sono qui ospite, perché sono entrata con mio marito, che era più anziano di me. Io ero ancora giovane, non potevo entrare. Però con mio marito, siccome lui era molto più anziano, sono potuta entrare e così sono passati 28 anni che sto qui alla Casa Verdi. Sono contenta di essere venuta, perché mi trovo molto bene. Anche quando è morto mio marito mi sono trovata benissimo qui. Una grande famiglia, sì. Però ognuno è libero di fare quello che vuole, questo è bello. La sua storia di musicista come nasce? E nasce che io ascoltavo la mia mammina, che aveva una voce bellissima, una voce veramente bella. E io avevo 6 anni e l'ascoltavo. E così mi sono trovata un bel giorno, sempre a 6 anni, ho aperto la bocca e mi sono trovata anch'io di avere la voce come la mamma. Avevo già la voce formata. Così cantavo. La signora che abitava al piano di sotto mi ha sentito cantare, allora no, questa bambina deve farsi sentire. E così è cominciata la mia storia prima della guerra. Dopo la guerra ci siamo fermati un attimino, poi sono tornata a Milano e di nuovo una parente di questa signora mi ha sentito cantare, anche lei si è interessata di farmi sentire da un impresario, il quale mi ha detto: questa ragazza, avevo 14 anni, deve andare al conservatorio. E così ho iniziato un altro conservatorio, ho studiato e poi ho cominciato a cantare che avevo 16 anni. Mi pare che ho debuttato col Barbiere di Siviglia a 16 anni. E così cantavo nei concerti, poi ho cantato altre opere, finché poi ho incontrato mio marito, il quale non è che non volesse che io cantassi, però avevo un carattere terribile, ero un direttore d'orchestra, e continuava sempre, ogni volta che cantavo in pubblico, mi faceva sempre osservazioni, perché hai cantato quel pezzo, perché hai fatto così, allora io stesso ho deciso di non cantare. Poi mi faceva sempre le scenate così, allora ho lasciato io. Era un po' geloso? Geloso, secondo me era più invidioso che geloso, non lo so. Perché vedeva che avevo successo, che avevo tutte queste cose, allora lui, secondo me, era anche questo. E questo non ha un po' compromesso il vostro rapporto affettivo? È un po' sì. Avete avuto figli? Sì, un figlio che è un bravissimo pianista. Suona sempre fuori, concerti, molto bravo. Quindi la tradizione di famiglia comunque continua? Sì, sì, quella continua sempre. Lui suona per i fatti suoi, io canto ancora. Il più grande rimpianto è quello di essermi sposato. Non volevo sposarmi, è andato tutto diverso da come mi aspettavo. Io cantavo lo stesso, mi facevo delle scenate, ero qui, potevo farlo, perché non poteva impedirmelo proprio. E così sono andata avanti così, non ascoltandolo come ho sempre fatto. Quindi in un certo senso Casa Verdi le ha permesso quella libertà che in famiglia non aveva. Certamente, Casa Verdi finalmente, quando sono entrata qui, ho preso un sospiro, dico, oh, finalmente adesso posso finalmente essere un po' libera. Ecco, una giornata tipo qui a Casa Verdi com'è? Una giornata tipo è quando ci sono dei concerti, che vengono delle personalità a trovarci, a intervistarci, insomma, sempre qui c'è sempre movimento, non si sta mai tranquilli. E questo è bello, perché così l'ospite rimane sveglio, rimane interessato, vive meglio, non si abbandona, ecco. Invece si reagisce e si diventa, in fondo, più giovane di quando si stava a casa. Perché c'è un perché tu devi tenerti su, devi stare sveglia, ecco. E ci sono anche le rivalità. Certo, questo c'è sempre dappertutto. Ma c'era più una volta che oggi, oggi c'è meno. Ci sono meno cantanti, forse anche perché vengono meno. Si vede che una volta preferivano venire qui perché non avevano le possibilità di stare a casa proprio. Invece adesso c'è un'altra idea della Casa Verdi, della casa di riposo, ecco. Adesso preferiscono stare a casa loro, hanno magari la casa di proprietà, insomma, tutte queste cose, preferiscono rimanere nella loro casa. Forse in questo senso perdendosi qualcosa, perché appunto qui hanno più compagnia anche. Ma certamente si perdono tante cose, perché qui intanto siamo sempre in mezzo alla musica e questa è la cosa più bella, perché sono concerti, vengono tante personalità, invece se uno sta a casa proprio non vede nessuno, si annoia, si demoralizza. Invece qui uno non si può demoralizzare, perché c'è sempre delle novità, sempre delle cose belle, ecco. E allora uno sta sempre sul chi va là, non si abbandona, ecco. Ed è un miracolo come Casa Verdi riesca da così tanti anni ormai a continuare ad accogliere i suoi ospiti, come ci spiega il presidente di Casa Verdi, Antonio Magnocavallo. Cosa rende Casa Verdi una casa di riposo così speciale? Credo che siano molti motivi. Il fatto che l'abbia creata Verdi è quindi uno dei personaggi non solo quest'anno ma di maggior rilevanza nel mondo. Che sia praticamente l'unica l'unica casa di riposo per musicisti esistente al mondo. Non nella realtà c'è stata quella del film bellissimo Quartet di Dustin Hoffman, uscito quest'anno, di una casa di riposo ideale esistente in Inghilterra, che in realtà è una, come idea, la ripresa vedendo un vecchio film su Casa Verdi. La sua camera è una bella suite in quella che chiamiamo ala B. Vabbè, è una prigione. Io ero qualcuno una volta. Casa Verdi è un'eccellenza. Noi siamo regolarmente in testa alle classifiche lombarde come risultati e prendiamo quasi sempre un premio a questo riguardo. Siamo sempre al numero uno o numero due. Avete ascoltato Reportage, suoni e voci dall'Italia e dal mondo. Tutte le puntate sono disponibili sul sito internet www.radio24.it.